Il sabato del villaggio. E siamo per concludere il sabato del villaggio, perché tra qualche istante inizia la terza ora del sabato, che come sapete cambia di abito, di nome, di sigle e tutto. Però avrei un paio di messaggi da leggere ancora al 349-238-6666, che come sapete è il numero per i vostri WhatsApp e per i vostri SMS, invece chiocciola Marta Cagnola, ma anche chiocciola di Bellasio, per i vostri account di Twitter. Allora, Fabio Damarostica che ci ricorda il tuo culo e il tuo cuore, magnifico inno alla donna. Per Roberto Vecchioni che è stato con noi. E poi informazione di servizio: ascoltatore o ascoltatrice che ci chiede titolo autore del libro consigliato per i bambini sulle paure di terremoto e sui migranti, Nadia Terranova, Casca il mondo, titolo e autrice. Adesso è il momento di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La terza ora del sabato del villaggio, che è quella che poi diventa l'ora più bella del sabato pomeriggio, che puoi è quella di Radio forte, YouTube. No, più forte più no, perché sennò poi assordo gli ascoltatori. Siamo liberi dalla par condicio. Quanto cari sei felice? Ascoltatori, quanto sei felice? Per poco, perché visto il clima mi sa che... No, e allora io secondo un me anno qualche di campagna giorno. Elettorale permanente non lo posso No, vivere. Ma perché la par condicio, cari radioascoltatori, voi dovete sapere, la par condicio non ti abbandona mai, ti accompagna, mentre sei lì che fai la scaletta, no? Immagini questa faccia del garante, c'è poi no? Questo garante, sono tanti, immagini i tuoi superiori, immagini tutte queste figure tutt'attorno che valutano la par condicio. E poi soprattutto ce ne siamo liberati. È un po' come quando tu cammini al buio temendo di pestare i mattoncini dell'ego, perché non o sai... O la pipì del cane. Esatto. I mattoncini. Perché tu non sai ma qualsiasi cosa potrebbe... Ma perché tu hai i mattoncini dell'ego in casa? No, al momento no, però... Ma allora che esempio è? Vabbè. Però per dire, sai... Allora, questa settimana, intanto, @MartaCagnola, @DiBellasio, #ISDV, se volete parlare delle due ore precedenti, oppure #RadioTube, se volete parlare di questa, giusto? Oh, che meraviglia! Questa è stata la settimana, ha detto Christian Goldoni, ci che ha dato proprio il lead della trasmissione... È la delle cadute. Delle cadute. Sì, delle cadute. L'Inter era già da prima, da mo. Vabbè, la prima. Che stile, se le dice stile, da esatto. Sola. Da allora, solo. La prima e più istituzionale e più importante per il paese, quella di, immagino, di Iachetti, no? Quella di Iachetti, ovviamente. È successo questo a Striscia la Notizia. Grazio, Greggio e Denzino Iachetti. La coppia. Ma cosa ha fatto? Hai zappato? Allora, cosa è successo? In realtà è l'esempio del The Show Must Go On. Cioè? Perché stavano entrando, il povero Iachetti è scivolato. Povero, ma ha battuto la testa, ma proprio la nuca sul tavolo. È stata una cosa tremenda. Lui sorrideva, ma veramente smorfia di dolore. L'altra caduta, grande caduta istituzionale. Quella per cui tutto il paese è appesa a questa caduta. È successa a Rai News 24. Ecco. Agevoliamola. Però è la politica, vai via 2 anni, poi torni. Professore, sono allenare in una caverna. Professore, tutto bene? Si è rotta la sedia, sono troppo grosso. Ma lei sta bene, sì? Io sto benissimo, altro che ci vuole altro che questo. Ah, meno male. Però dovrebbe indurre la RAI a cambiare le seggiole. A Milano c'è da cambiare una seggiola, adesso lo sappiamo. Da dare più sostanza. Le rimettiamo anche. Chiedo scusa. No, ci mancherebbe, l'importante è che sta bene. Allora, professor Giulio Zappelli. E il grande Roberto Vicaretti. È bellissimo. In realtà non si vede nulla perché è un collegamento da Milano. Però sì, evidentemente lui è sparito dal collegamento. Però l'hanno presa professore, bene. Professore, professore. Sono caduto. Sono caduto, sono troppo grosso. Hai visto Vicaretti, è stato bravissimo. La terza caduta invece è quella meno istituzionale delle tre. Quella che ha meno conseguenze, direi, politiche. Quella che tutto sommato non se n'è neanche parlato tanto. No, infatti, tranquilla, cioè, non come è che settimana. Ha avuto degli effetti. Perché domenica c'è stato il derby. Il derby della Lazio e della Roma. Non è andato tanto bene che per Cristian. Invece io sono più contenta. Quindi, referendum, diciamolo. Referendum significa solo una cosa, significa maratona di Mentana. E io vorrei celebrare la grande maratona Mentana con questo momento memorabile. Renzi non è morto, è molto ferito, gravemente. Io direi cartello 12. Cartello 12? Una versione San Sebastiano. Ma non potete mettervi d'accordo prima, così questi tempi? No, no, è... Vabbè che siamo notturni. Se... Allora, riposati sì. A lungo, perché non ti inviteremo mai più. Ma allora... C'è Sorgi che... Anche Sorgi va di cos'è. Anche Sorgi... Mentana, che è il vignettista. Mai. Posso salutarlo? Ciao Emiliano, Emiliano Carli è bravissimo. Ciao Emiliano. Gli ha detto non ti inviteremo mai più. E poi i cartelli, non vi potevate mettere d'accordo. Lui è tremendo. Che sadismo. Cattivissimo. Vabbè. Però Emiliano Carli è bravissimo. Noi ciao Emiliano. Sentiamo anche il direttore. Sì. Mentana. Vabbè. Parliamo di politica. La caduta vera. Che è quella, dobbiamo dire, di Renzi. Di Matteo Renzi. Sì, di Matteo Renzi, del sì. Abbiamo in studio con noi Stefano Origlia, che è un grande esperto di comunicazione politica. Non so, per dire, se Sala ha vinto, possiamo dire c'è un po' del tuo merito oppure altre cose di questo tipo? Ho fatto del mio meglio. Ho fatto del mio meglio. Allora, non so, una domanda Stefano. Facile, perché ha perso il sì così tanto? Perché ha perso così tanto? Allora, sicuramente è stata collocata questa campagna in una cornice molto stretta, che è quella del voto sul Presidente del Consiglio. Cosa ha fatto sostanzialmente Renzi? Con una grossa operazione di amplificazione e personalizzazione, strategicamente sconsigliabile, iniziata molto presto, ha schiacciato lo spazio-tempo e trasformato questo referendum nel voto delle politiche 2018. Un voto essenzialmente sull'operato. Del governo che stava guidando. Fondamentalmente gli elettori si sono trovati a esprimersi su questo, non sicuramente sui contenuti di una riforma anche estesa, articolata, che non era semplice semplificare. Forse bisognerebbe anche dire che le chiavi di semplificazione adottate per questa riforma hanno premiato una vecchia regola della comunicazione politica per il consenso, ovvero l'elettore sceglie l'originale. Quando un partito fondamentalmente istituzionale preme sull'antipolitica, dettaglio alle poltrone, allora ecco, vedremo che crea sostanzialmente una cornice attorno alla campagna elettorale e l'elettore tenderà sempre a premiare chi in quella cornice è il miglior attore. Sicuramente non il Partito Democratico, sicuramente il Movimento 5 Stelle. Che la bravo. Personalizzazione, bravo. Vedi? Allora, prima di dare la linea al traffico, vorrei leggermi un tweet che mi ha divertito leggiamolo. Più di tutti, sì? Di... Angela Merkel, ovviamente quella falsa, finta. Quella finta, come scritto? Twitter. Angela Merkel, Queen _ Europe, Queen_Europe, la regina d'Europa, che dice: detto. Let's have a fucking referendum on whether to ban overconfident male prime ministers from holding referendums. Cioè, facciamo un referendum sull'impedire ai primi ministri maschi europei un po' troppo consapevoli di sé di indire dei referendum. Vietiamo a questi europei dopo Cameron maschi, Renzi. Che forse non è il caso che... Ma infatti Stefano ha proprio una tesi di questo tema, ne parliamo. Ne parliamo tra pochissimo, sì, diamo la linea al traffico e poi vediamo se l'account fake di Angela Merkel ha ragione. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Radio Tube. Come era evidente e scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo cancellare le troppe poltrone della politica italiana, il Senato, le province, il CNEL. Non ce l'ho fatta e allora la poltrona che salta è la mia. Abbiamo sempre con noi Stefano Origlia. Mi piace perché sul tuo LinkedIn sei un communication samurai? Beh, communication samurai effettivamente si può attagliare alla situazione attuale. A Renzi adesso diciamo, caduto 7 volte, rialzati l'8ª. Adesso lui non sappiamo lui quante volte è caduto nella sua vita, ma sicuramente cercherà di alzarsi un'altra volta. Sì, anche perché quando cade poi dopo dà il suo meglio dopo. Esatto. Ma torniamo, Marta, al tweet della finta Angela Merkel di prima, che faceva nella battuta un parallelo tra Matteo Renzi e David Cameron, i due giovani premier vincenti, cioè partivano da vincenti e finiti con una sonora sconfitta. C'è qualcosa che li accomuna nella campagna referendaria oppure no? Beh, diciamo entrambi strategicamente colpevoli di una personalizzazione rispetto a una partita che, come insegnano le regole del referendum, è altra. La prima... E quali sono queste regole? Allora, la prima regola del referendum recita sostanzialmente che i referendum sono sui temi e non sulle persone. O andrebbero condotti sui temi e non sulle persone. Il rischio l'abbiamo visto per entrambi letale nelle ultime consultazioni. La seconda regola sostanzialmente è che si vincono i referendum quando si riesce a fare appello alla normalità, alla quotidianità delle persone, cioè quando la trasformazione contenuta nel referendum potenzialmente va a incidere, andrà a incidere sulla vita degli esseri umani, diciamo così, di quelli che sono lontani dal palazzo. Le riforme costituzionali, se le vendi come tali, forse non prendono, se invece le vendi come qualcosa che si mangia. Esattamente, si riesce a collocarle nella realtà sostanzialmente per i loro effetti, puoi vincere. Terza regola? La terza regola è che bisogna arrivare al punto e semplificare. La semplificazione in questo caso c'è stata, una semplificazione diciamo così più di stampo populista, che quindi, come dicevamo prima, ha premiato prevalentemente l'elettorato del Movimento 5 Stelle, che si è rimobilitato effettivamente per tagliare la politica, che non chi... Per tagliarne uno di politico in particolare. Per tagliarne un po', che non chi insomma si riprometteva, pur partendo dalla politica, di tagliarla, cioè tagliare se stesso fondamentalmente. È difficile poi per chi si occupa di comunicazione studiare una comunicazione nel momento in cui poi non si parla più del merito. Allora, diciamo che stiamo affrontando in Europa, in Italia in particolare, una cultura dell'ansia emergente. Potremmo dire che 7 italiani su 10 vivono in una condizione di ansia permanente. Questo cosa induce? Due ce l'hai qui di fianco, cioè noi... Sì. Vabbè, comunque scusa. Sostanzialmente questo cosa induce? Induce a, come dire, far prevalere la dimensione emotiva su quella razionale. La razionalizzazione non entra più fondamentalmente nei processi con il quale il cittadino metabolizza il messaggio politico, e quindi il cittadino cercherà delle chiavi che sono più vicine appunto alla sua vita quotidiana, e sono delle chiavi d'ansia. Delle chiavi d'ansia gonfiate anche ad arte fondamentalmente da una parte della politica, questo lo possiamo dire, la politica intercetta un percepito, e quando questo percepito è associato alla paura, alla paura verso il futuro, alla paura del diverso, allora quel politico tenderà a guadagnare consenso. È esattamente quello che ha detto Grillo, quindi in questo era studiato il dire non votate col cervello, come dire votate con quello che vi sentite, è più o meno quello che stai dicendo tu? Diciamola, io sono sempre diffidente quando la politica spiega le regole con le quali comunica, sì. Perché sostanzialmente il risultato che dà è quello di un'operazione molto artefatta e strategica. La politica deve far accadere la magia, non raccontare i meccanismi con i quali può generare una trasformazione o utilizzare, fare leva sul percepito dell'elettorato. Anche in questo Grillo ha sbagliato, come di fondo sbagliava il nostro Presidente del Consiglio, molto genuinamente, quando diceva ho sbagliato a personalizzare questa campagna. Cioè svelava una cosa che doveva non fare, non svelare. Esattamente, in sostanza. Allora, io vorrei ascoltare un altro Renzi, ma mica quello vero, il Renzi di Crozza. Forse mi prenderò un anno sabbatico. Ah sì? Forse andrò da Don Mazzi. Ah. Forse andrò a curare il lebbrosio. Forse. Dedicherò il resto della mia vita alla... Cosa? Vendetta. Tremenda vendetta. Avete fatto un unico errore. Quale? Mi avete lasciato vivo. Perché da adesso io sarò il vostro incubo. Ma non faccio paura. E quando fra molti anni penserete di essere ormai al sicuro, sappiate che io sarò lì nascosto. Dove? Dietro un MacBook Pro. Ah, quello sempre. Sbucherò. Sì. All'improvviso. Alle vostre spalle. Sì. E mi riprenderò i miei 80 euro, uno dopo l'altro. Sta cambiando anche lo storytelling di Crozza nei perché non cambia solo la comunicazione, deve cambiare la TV, la satira. Cosa vogliamo sapere? Vogliamo sapere qual è la prossima di campagna di Renzi, se in qualche modo può riprendere. Che cosa potrebbero essere le prossime mosse? Gli consiglierei di rimettersi sul Partito Democratico. Ritornare alla struttura che ha dato una risposta solida alla campagna referendaria, ma che poteva essere superiore. Riportare o portare i propri giovani, non solo a incontrare le persone per strada. Ripartire, insomma, rifondare dalla base le meccaniche con le quali oggi funziona il Partito Democratico. In questo modo, di fondo, uscire anche da uno spettro luminoso, diciamo così, che è quello appunto della sconfitta recente, richiudersi in una dimensione anche un pochino più intima, che è sua propria, sono le sue origini e il suo percorso, e fare qualcosa che un domani, nella prossima corsa che sicuramente farà, gli tornerà sicuramente estremamente utile. Ricordiamo che nel discorso, nel concession speech, quindi nel discorso di accettazione della sconfitta di Matteo Renzi, lui dice: quando si combatte per un'idea non si perde mai, che ci ricorda un guevariano, un guevariano: le battaglie non si perdono, si vincono sempre. Lui tornerà sicuramente in campo. Oggi quale sia la rotta non lo possiamo dire. Comunque tu dici più PD che partito suo personale. È difficile per lui immaginare che quel 40% sia quasi più suo che del PD e dire: mi faccio una forza politica. Mettiamola così. Dal punto di vista della comunicazione, intendo. Mettiamola così. A quel 40% sicuramente Renzi non dava fastidio. Proprio per il fatto che è avvenuta una grossa personalizzazione, che questo voto era sicuramente su di lui, sappiamo che oggi c'è un 40% di cittadini italiani, di elettori anzi, che rientrano all'interno di un 65% di affluenza, che nel complesso sono disponibili a dare credito a Renzi. Certo, i sondaggi rilevano questo livello di gradimento del premier, dicendo che insomma lui negli ultimi mesi, ma anche negli ultimi anni, è stato oscillatorio tra il 35 e il 40%. Oggi lui ha avuto la conferma del fatto che può parlare sicuramente con efficacia a un 40% di elettori italiani. Ho un'ultima domanda, sono curiosa di sapere quanto ha contato la rete, ma soprattutto quanto nel tuo mestiere la reazione della rete e l'uso della rete è prevedibile, perché immagino che adesso per voi, che tu sei giovane, quindi immagino che questo mestiere non lo faccia da tantissimissimi anni, però adesso è una variabile impazzita, soprattutto negli ultimi periodi è davvero difficile da... Non dico controllare, è brutto, ma da prevedere nei comportamenti. Allora, sicuramente la rete ha introdotto degli elementi di incertezza che tendono a premiare più che la strategia, la tattica. E io ho iniziato a fare questo mestiere nel 2005, di conseguenza sono passato nel corso degli anni dalla comunicazione politica tradizionale, fatta su carta, televisione e radio, a quella che integrava anche i social media. Quello che abbiamo visto nelle ultime elezioni, in quelle americane in particolare, e in questo referendum, è una crescita della mobilitazione che passa attraverso i social media. Pensiamo semplicemente a questo famoso post di Piero Pelù che parlava del fatto che le matite cooperative fossero cancellabili. Ecco, quel post ha generato 130 o 40 mila condivisioni, che significa visualizzazioni per milioni di cittadini che volevano sentirsi dire: muovetevi perché qui vi stanno fregando. Di qui, insomma, vediamo anche nei numeri: 19 milioni per il no. Quindi non tutto me... merito colpa di Pelù. Anche perché sennò candidiamo lui la prossima volta. Non tutto merito colpa di Pelù, sicuramente. Però questo rende il vostro lavoro sempre più complicato. Sì. Particolarmente complicato, sicuramente anche entusiasmante. Oh! Bello, mi piace molto. Quasi come il nostro, quasi come stare qui con Marta. Sì, ma certo. Cioè, noi di più. Noi di più, nettamente. Che meraviglia. Siamo pronti per riposarci. No, ma sai che ti chiameremo ancora, Stefano, perché visto che abbiamo l'impressione che vivremo in una campagna elettorale abbastanza così. Sì, però la par condicio non subito. No, datemi per due puntate favore, almeno, per favore, cioè, par condicio basta per un po', perché sennò veramente parliamo solo di scemenze per settimane. Se no ti costringo a parlare solo di Inter, quindi sei rovinato. Va bene. Grazie Stefano Riglia. Grazie Stefano, buon lavoro, grazie per questo sguardo sulla strategia della comunicazione e della politica, molto interessante. È stato un piacere. A presto. Una pausa e poi saremo ancora insieme. Vai. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo e c'è la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico.

bisogna andare a vedere che cosa è successo allora. Mi piace parlare di Muhammad Ali come dell'unico afroamericano che si sia ribellato all'establishment e incredibilmente sia morto di morte naturale. È incredibile come lui abbia attraversato quegli anni dove palesemente era sotto il controllo FBI ed era uno degli uomini più vilipesi d'America ed è arrivato fino a morire per morte, morte naturale. Però a 50 anni di distanza ci sono tanti atleti afroamericani che sono più o meno dove si trovava lui, anche se a circostanze diverse degli anni 60-70. Ho un'ultima domanda, Federico. Quando fanno le parodie di Federico Buffa, visto che ormai è un ecco, c'è qualcosa che ti arrabbi, ti diverti? No. Io ho familiarità solamente con quella degli autogol. Degli autogol. Questo trio di adorabili canaglie di Pavia. Però siccome in varie occasioni li ho avuti in camerino, a teatro e in altre occasioni ho fatto al ragazzo che mi imita direttamente i miei complimenti. Mi sono anche permesso di dire certe volte sei meglio dell'originale, almeno per come mi sento io, perché è una parodia, imitazione arguta, intelligente, ovvero sia si mettono in bocca delle storie inverosimili, però prendendo proprio l'angolazione che potrei prendere io. La cosa più sorprendente è che un paio di volte qualcuno, magari che non risiede in Italia ma le sente soltanto sulla rete, mi ha detto: però bella quella del Giappone, non me l'aspettavo da te, guarda che non l'ho fatta io. Grandissimo, fantastico. Grandissimo. Federico Buffa, grazie. Straordinario. Allora, faccio grazie. Proprio ancora, faccio il disannuncio. Louisville Day, questa sera, sabato 10 alle 23.45 su Sky Sport 1 HD, è la prima delle tre puntate di Federico Buffa racconta Muhammad Ali. Tra l'altro c'è anche il sito buffaracconta.sky.it. Grazie per essere stato con noi, Federico. Grazie, ciao. Grazie a voi, è stata un'intervista deliziosa. Grazie mille per avermi invitato. Grazie, grazie, a presto. E per chi vuole a teatro, certo. L'abbiamo detto, Menotti. E quindi? A tra poco, traffico. Facciamo però un passo indietro e vediamo come nasce quella che, a detta di tutti, è la nazionale più forte di tutti i tempi. Il grande Giappone di Oliver Hutton, Benji Price e Mark Landers. Federico Buffa racconta storie mondiali. Il grande Giappone di Olli e Benji. Radio Tube. Oh, quanti ospiti, quanti argomenti interessanti. Abbiamo anche parlato tanto di politica, quante finalmente. Quante storie. Sì, beh, finalmente. Ma adesso che il garante. No, mi anche perché a cena che... una sera. Per capire, per un tete-a-tete col garante. Parlare. Anche con chi ha scritto queste tutti i vari parlamentari che nel corso del tempo si sono occupati. Vabbè. Oddio, mi è caduta la penna. La penna può cadere. Esatto. Questo non è che non potessimo parlare, dire, sì, però sì, era no. Talmente difficile essere equidistanti dal sì e dal no e ogni volta. A un certo punto abbiamo detto: sapete cosa c'è? Ciao. Ciao. Ah, ciaone. Anche perché ciaone. Poi noi siamo a trasmissione. Scusate, sparisco. Aspetta. Un attimo, vado a recuperare la penna. Oddio, si sta. Niente, è andata sotto la scrivania, ma adesso torna. Vabbè. Allora, dicevamo questa cosa pazzesca. Ti ricordi la dub dance? La scorsa settimana abbiamo parlato l'etimologia, non sapevo com'è nata. Io avevo visto nel video del nuovo singolo di Rovazzi, che già milioni di visualizzazioni, li contiamo più. Poi il Plai è stato accusato, il Plai, vabbè, tutte queste cose. Sì, perché praticamente Salmo, che è un altro cantante, gli ha detto che l'aveva copiato e lui ha risposto in maniera abbastanza colorita, così. Hanno fatto. Allora, nel video di Rovazzi, a un certo punto si vede sia Rovazzi, sia J-Ax, J-Ax. E sia Fedez che fanno questo gesto che mostriamo alla radio. Allora, con le mani metti la faccia dentro all'interno del gomito, sì. E le mani puntate verso l'alto, però non si deve tanto vedere la faccia. Allora, chi lo faceva? Allora, aspetta, rifallo che faccio una foto che così poi la posto agli ascoltatori. Aspetta, devo fare... Devi farlo con un po' di saltino. Allora, io ero convinto che nascesse da il festeggiamento di Pogba della Juve, quando stava la Juve. Poi Christian ci aveva spiegato che non era proprio questa cosa qua. E poi hai trovato un video che spiegava bene adesso, a cosa serve. Esatto, ho trovato Matte Bise. Riconosci Matte Bise? Ma so che tu sei molto appassionato, no, meglio tuo Rocco, figlio è molto appassionato Matte di Matte Bise. Che noi li vorremmo qui, venite in studio. Sì. Prima o poi speriamo di averli anche a Radio TV. Allora hanno fatto un video dove loro fanno finta di fare i provoloni, come dice Marta Cagnola, con delle belle figliole. E però poi a un certo punto, mentre fanno i provoloni, fanno questo gesto che adesso mostriamo la radio nella versione di Matt e Bise. Eccole qua. Ciao amici, siamo Matt e Bise, Matt e Bise. Oggi proveremo ad andare a rimorchiare le ragazze con le battute più squallide del web. Ma ragazzi, non c'è neanche da dire, se arriveremo a 150.000 like faremo un nuovo prank. Iniziamo con questo bellissimo video. I got broads in Atlanta. Sai che tuo? Oh, piacere. Valentino. Ricordalo che lo urlerai più tardi. Posso sapere il nome della madre dei miei futuri figli? No. Beh, posso sapere il nome della madre dei miei futuri figli? Originalissimi. Però mi sembra che non è che gli vada benissimo. Non gli va benissimo. Comunque, nel frattempo fanno sempre. E fanno sempre la dub dance alla fine della, sì, di ogni tentativo di abbordaggio. Sai che, allora, in realtà io ho letto un po', non si sa chi l'abbia inventata, perché litigano anche loro ad Atlanta, nella scena di Atlanta, su chi potrebbe averla inventata. Ma è stata inventata ad Atlanta. Ma sicuramente, pare che arrivi da Atlanta, ma sicuramente l'ha ballata anche Hillary Clinton. Cioè? Perché? L'ha fatta l'Ellen DeGeneres Show, uh-huh, e ha fatto la dub dance anche Hillary Clinton. Quanto mi sei preparata? Vabbè, ho letto. Hai letto. Invece? Invece a proposito di donne. Sì, la coppia del momento. Parisi Cuccarini, perché questa settimana c'è stato il referendum. C'è stato, certo, il derby, e ce ne sarà adesso un altro, ma c'è stato un altro derby. Ma si menano, Parini, no? Si odiano, guarda, no? Che, allora, cos'è successo? Io aspettavo tantissimo questo nemica amatissima, Lorella Cuccarini, Eder Parisi. Già da settimane si susseguivano voci, però non si capiva quanto potesse essere una montatura di comunicazione, gli uffici stampa, gli agenti che facevano finta che loro litigassero. Dice che tutte le sue parti, poverina. Allora, Eder Parisi aveva sempre sta faccia scocciata. Intanto ha ballato pochissimo, ma lei l'aveva detto che avrebbe ballato poco, però la Cuccarini ha ballato come un diavolo, bravissima. Quindi insomma, tutti cominciavano a scrivere sui social: è certo che però la Cuccarini balla, lei no. Tu pure magari, e tu e la Carini lì. Sì, noi, io e la mia amica Carini, che abbiamo sentito anche questo sabato del villaggio. Vabbè, insomma, io ho chiesto dei gossips a una mia amica che era lì, che accompagnava una persona, non stava lavorando nella... Dice, se odiano o no? Che la Parisi era davvero seccata sul serio. Ah, sì, perché sì, sì, ha detto che hanno tagliato era di più le sue parti. Però ha fatto una scena bellissima. Ha fatto una scena bellissima, questa è stata molto apprezzata nei social, ed è stato un suo monologo del quale possiamo dare un'evocazione alla radio. Stefano, mi fai un primo piano? Stringi, stringi, dai. Grazie. La conoscete? È la mia faccia. Io non l'ho mai cambiata, anche se lei è un po' cambiata da quando ragazzina sono arrivata in Italia. La incontro ogni mattina davanti allo specchio e ci parlo. Alle volte mi piace e mi dico però. Altre volte la detesto perché penso quanto sono invecchiata, ma non l'ho mai tradita. La conosco troppo bene. Ci sono cresciuta assieme. L'ho messa sempre davanti a me. Qualunque cosa abbia fatto nella mia vita, lei c'era. Beh, bello questo monologo sul fatto che anche se invecchi, se c'è qualche ruga in più, e quel primo piano era veramente impietoso, le ha fatto avvicinare molto. No, beh, perché lei è ancora bellissima. Però, sai, quando ti fai riprendere da lontano, sei molto giovane. Lei invece si è fatta proprio riprendere senza paura, da molto vicino, e ogni imperfezione dell'età, insomma, viene fuori. Sì, bellissimo. Però ancora bellissimo. Io posso bello dirti la verità. A me è spiaciuto, perché io voglio comunque immaginare che ci possa essere un'altra nemica amatissima e che invece possano fare pace e che tutto finisca bene, perché erano le mie preferite della mia infanzia. Beh, una più dell'infanzia di quando ero piccolina, una più di quando ero ragazzina, però insomma, anche a me stavano molto simpatiche, e stanno ancora molto simpatiche. Sì, a me è piaciuto molto. Vai, speriamo che facciano pace. Allora, angolo delle emozioni, quello che ha inventato Marta negli ultimi 2-3 settimane. Perché a me piacciono angolo questi dello spot di fa Natale piangere. Ci sono sempre questi spot angolo che ci commuovono. Dei nonni. Ci sono sempre i nonni. E i nonni piacciono. Allora, cominciamo a evocare questo spot, perché bisogna un po' raccontarlo. Parecchio. È lo spot più condiviso in questi giorni sui social, e tutti che scrivono: con questo piangete sicuro. Vai. Suitcase, slippers, toothbrush, passport, pyjamas, be good dog. Allora, Allora, si sente che c'è un signore anziano dalla voce che impara delle parole in inglese, ha un accento dell'est, infatti vi posso dire che questo video è polacco. È una pubblicità di un servizio di acquisti online, credo. Eh sì. Perché questo signore impara delle parole in inglese? Perché vuole imparare questa bellissima lingua per una bellissima persona. Ma dobbiamo svelare, lo spoileriamo, lo il spoileriamo finale. Un po', spoileriamolo. Ma un no, po'. Perché lui prende poi un aereo, va, si immagina in Inghilterra, Londra, arriva a casa da suo figlio o da sua figlia, non si sa bene, e si presenta una bambina bellissima dicendo: sono il tuo grandpa. Grandpa, perché lui tra le varie grandpa. Parole che ha imparato è anche nonno, e lì pianti. Oltre I love you, you are perfect. Che meraviglia, stupendo, belli, belli, guardatelo, questi spot dei nonni, guardatelo perché è proprio spot pensati per essere virali. Allora Daniele, dobbiamo salutare. Ci salutiamo. Finito il nostro, con lo spot di Natale, come sempre è finito il nostro appuntamento con RadioTube, ma saremo ancora insieme sabato prossimo alla grandissima. Ringraziamo Valeria Bernardi in regia, Cristian Goldoni nella super regia, va bene, nella redazione e anche nell'idea, sì. Proprio in qualsiasi cosa, ma è una roba pazzesca. E se volete ci risentiamo, anche sabato se forse prossimo, ci rivediamo sì. Sabato prossimo, dai, lo facciamo? Ciao.